Lezione 5. In albergo. 3. Una prenotazione. Albergo Torcolo, buongiorno. Buongiorno. Senta, avete una camera doppia per il prossimo fine settimana? Un attimo, prego. Dunque, beh, c'è una matrimoniale, va bene lo stesso? Sì. E da venerdì o da sabato? Per due notti, da venerdì a domenica. D'accordo, e a che nome, scusi? Cipriani. Cipriani, perfetto. Sì, un momento però, ho ancora una domanda. Quanto viene la camera? 120 euro, compresa la colazione. Benissimo. Un'ultima informazione, avete il garage? No, signora, mi dispiace, ma ci sono due parcheggi qui vicino. Ah, va bene, la ringrazio. A venerdì allora. Sì, ma scusi ancora una cosa, signora, per la conferma può mandare un fax? Certo, ma anche subito se vuole. Perfetto, allora grazie e arrivederla. Prego, arrivederla.